Salve a tutti e ben ritrovati sui 102.2 per una nuova stagione, la possiamo chiamare la 2011-2012, anche se il 2012 ormai è partito già da un po'. Una nuova stagione, si diceva, di overbooking che tanto avrete, diciamo, vi è tanto mancato probabilmente, o anche no, ma comunque overbooking che si occupa di parlare di libri sempre sui 102.2 di Radio San Donà. Iniziamo col botto, come ci è proprio ormai da anni e anni, e quindi abbiamo un ospite, e l'ospite di oggi è Ferdinando Morgana. Ciao a tutti, ciao Alvise, ciao a Daniele che ci guarda dall'altra parte del vetro, dalla regia. Tu dicevi siete mancati, sì, siete mancati molto, a me particolarmente, quindi è bello essere di nuovo qui. Bene, quindi il programma è mancato ormai a ben due persone, uno sono io, uno è Ferdinando, un altro è sicuramente Matteo Polo, che comunque continua a essere il deus ex machina di questa trasmissione. Ora, Ferdinando era già stato nostro ospite e ci ha anche guidato verso la conoscenza di numerosi libri e testi che altrimenti sarebbero stati a noi sempre e sempre sconosciuti. Sconosciuti anche ai loro autori, probabilmente. E invece oggi parliamo di qualcuno che, sconosciuto al pubblico italiano, sicuramente non è. E di chi parliamo? Oggi parliamo di Alessandro Baricco e del suo ultimo libro, il suo ultimo romanzo, Mr. Gwyn. È uscito per Feltrinelli, sarebbe simpatico dire un anno fa, visto che abbiamo appena iniziato il 2012, ma insomma è uscito qualche mese fa, nel finire del 2011. Ultima fatica per Baricco, che non usciva con un romanzo vero e proprio da un po', aveva pubblicato I Barbari, aveva pubblicato molte cose su Repubblica, quindi ritorna alla forma lunga dopo un pochino di tempo, e Mr. Gwyn, quindi molto atteso, scritto quest'estate durante un soggiorno a Londra, e effettivamente il libro è ambientato a Londra, quindi lui si è immerso nella situazione, in questa situazione cittadina, per probabilmente, immagino, meglio riuscire a immaginare il suo personaggio, il suo protagonista, camminare per le strade di Londra. È un libro che è piaciuto molto. Un libro che, tra l'altro, in cui tra l'altro uno scrittore parla di un altro scrittore. Sì, assolutamente, e in cui uno scrittore riflette su un tema che probabilmente è caro e particolarmente vivido nella mente di molti scrittori, prima o poi, cioè rinunciare, smettere di scrivere. Penso che, non lo so, non, quantomeno non per esperienza personale, però penso che gli scrittori arrivino sempre a un punto in cui si chiedono fino a quando la mandiamo avanti questa cosa qui, ok? Penso succeda un po' a tutti gli artisti, e qua sto facendo delle virgolette con le dita, non lo potete vedere ma lo sto facendo, è un segnale orrendo ma lo faccio lo stesso, questo qui. E credo succeda a tutti gli artisti di dire, ok, è la mia fonte ovviamente di guadagno, il mio lavoro, ma è anche ciò che mi rende felice nella vita, ciò che so fare meglio, però fino a quando la portiamo avanti. Penso che a tutti gli scrittori venga la tentazione di dire ok, adesso smetto, e a Mr. Gwyn viene questa tentazione. Ok, allora, prima di continuare a parlare ulteriormente di Mr. Gwyn, che è questo l'ultima fatica letteraria di Baricco, facciamo un breve intermezzo musicale e poi ritorniamo sempre in compagnia di Ferdinando su Overbooking 102.2 Radio San Donà. This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one insane. We're still making love in my secret. red lamp in my secret lair. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I have to do to get back. But I know what is wrong, and I know what is right, and I die for the truth in my secret life, in my secret. If the people live or die, and the dealer wants you thinking that it's either black or white, thank God it's not that simple. In my secret land, I bite my lip, I buy what I'm told, from the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. It's crowded and cold in my secret land, in my secret land, in my secret land, in my secret land. Leonard Cohen, Radio Sendonà 102.2, In My Secret Life, tratto da una delle ultime fatiche del nostro Leonardo, che tanto ha dato alla musica internazionale. Ma noi siamo qui per un altro. E che tanto ha dato anche alla scrittura, perché lui nasce poeta e anche autore di romanzi anche notevoli. E ancora fa dei recital durante i suoi concerti. No, ma infatti Leonard Cohen, diciamoglielo, non so se ci sta ascoltando, ci piace molto. Leonard, anche fisicamente ancora, sì, ancora attraente. Si tiene bene. Allora, noi invece siamo qui con Ferdinando per parlare di un'altra ultima fatica, che è... Sì, che è Mr. Gwynn di Alessandro Baricco. Allora, stavamo dicendo, questo romanzo fondamentalmente di cosa parla? Della tentazione che viene a molti autori, almeno così dicono gli autori quando vengono interpellati su questo argomento, di smettere di scrivere. È una tentazione effettivamente che Mr. Gwynn ha e che, alla quale cede. Cede a questa tentazione, pubblica sul Guardian un articolo in 52 punti, un elenco di cose che non farà più. L'ultima di questa è appunto scrivere libri. scrivere libri, quindi si ritira, come dire, fa un soggiorno a Granada, prende una camera in un posto isolato appunto a Granada, rimane lì insomma come per disintossicarsi anche dalle tutte le critiche, tutti i riscontri che erano arrivati da questo articolo pubblicato per il Guardian, e aspetta e lì passa il suo tempo. E dopodiché, dopo questo primo periodo, un anno e mezzo dall'uscita di questo articolo, lui effettivamente ha smesso di scrivere, però viene una seconda tentazione che capita agli scrittori che decidono di smettere di scrivere, cioè ricominciare comunque a fare qualcosa che abbia a che fare con le parole, che abbia a che fare con la narrazione. Allora Mr. Gwynne viene colto da una illuminazione dopo aver incontrato una donna, che è la donna col foulard impermeabile sulla testa e un ombrello un po' scassato, che è quella di fare il copista. C'è questo passaggio molto bello in cui lui si illumina all'idea di fare il copista, o meglio, non di fare il copista, ma come dire, viene affascinato da questa parola e capisce che quello che vuole fare ha a che fare con l'essere un copista. Allora andiamo a leggerci l'incipit di Mr. Gwynne di Alessandro Barrico e dalla voce della sempre splendente Elisa. Mentre camminava per Regent's Park lungo un viale che sempre sceglieva tra i tanti, Jasper Gwynne ebbe d'un tratto la limpida sensazione che quanto faceva ogni giorno per guadagnarsi da vivere non era più adatto a lui. Già altre volte lo aveva sfiorato quel pensiero, ma mai con simile pulizia e tanto garbo. Così, tornato a casa, si mise a scrivere un articolo che poi stampò, infilò in una busta e portò personalmente, attraversando la città, alla redazione del Guardian. Lo conoscevano. Saltuariamente collaborava con loro. Lui chiese se era possibile aspettare una settimana prima di pubblicarlo. L'articolo consisteva in una lista di 52 cose che Jasper Gwynne si riprometteva di non fare mai più. La prima era scrivere articoli per il Guardian. La tredicesima era incontrare scolaresche fingendosi sicuro di sé. La trentaduesima, farsi fotografare con la mano sul mento pensoso. La quarantasettesima, sforzarsi di essere cordiale con colleghi che in verità lo disprezzavano. L'ultima era scrivere libri. In un certo modo chiudeva il vago spiraglio che poteva aver lasciato la penultima: pubblicare libri. Va detto che in quel momento Jasper Gwynne era uno scrittore piuttosto di moda in Inghilterra e discretamente conosciuto all'estero. Aveva debuttato 12 anni prima con un thriller ambientato nella campagna gallese ai tempi del Thatcherismo, un caso di misteriose sparizioni. 3 anni dopo aver pubblicato un romanzo breve che raccontava di due sorelle intenzionate a non vedersi mai più, per un centinaio di pagine cercavano di realizzare il loro modesto desiderio, tuttavia la cosa risultava impossibile. Il romanzo terminava con una magistrale scena su un molo d'inverno. A parte un saggetto su Chesterton e 2 racconti pubblicati in differenti raccolte collettive, l'opera di Jasper Gwynne si chiudeva con un terzo romanzo lungo 500 pagine. Era la pacata confessione di un vecchio olimpionico di scherma, ex capitano di marina, ex presentatore di varietà radiofonici. Era scritto in prima persona e si intitolava Affari spenti. Iniziava con questa frase: «Spesso ho riflettuto sul seminare e sul raccogliere». Come era stato notato da molti, i 3 romanzi erano così diversi tra loro da rendere arduo riconoscerli come frutti della stessa mano. Il fenomeno era piuttosto curioso, ma non aveva impedito a Jasper Gwynne di diventare in breve tempo uno scrittore riconosciuto dal pubblico e rispettato da gran parte della critica. Il suo talento nel raccontare era d'altronde indubbio, e in particolare sconcertava la facilità con cui sapeva calarsi nella testa delle persone e ricostruire i loro sentimenti. Sembrava conoscere le parole che ognuno avrebbe detto e pensare in anticipo i pensieri di ciascuno. Non c'è da stupirsi se a molti in quegli anni era sembrato ragionevole pronosticargli una brillante carriera. All'età di 43 anni, tuttavia, Jasper Quinn scrisse per il Guardian un articolo in cui elencava 52 cose che da quel giorno non avrebbe fatto mai più. E l'ultima era scrivere libri. La sua brillante carriera era già finita. E sulle note di Erik Satie ritorniamo in studio sempre sui 102.2 di Radio San Donà in compagnia di Overbooking e in compagnia di Ferdinando Morgana e della sua scelta per quest'oggi, che è l'ultimo romanzo a firma di Baricco. Allora, Baricco che, come dicevamo prima, tra l'altro si era interrotto per qualche tempo, ossia non aveva più pubblicato sulla lunga distanza per qualche anno, se non sbaglio. Sì, aveva però scritto ovviamente per giornali, per Repubblica soprattutto, per la quale adesso continua con una collaborazione domenicale, e aveva scritto I Barbari, sui quali ha continuato a tenere interventi pubblici, aveva fatto vari interventi pubblici di varia natura, insomma, che sappiamo anche recenti, ovviamente ha proseguito con la presidenza della Scuola Holden, e insomma, comunque persona poi quest'estate aveva aveva partecipato anche a una, ai 7 punti per l'Italia di Oscar Farinetti, quindi comunque un impegno sempre continuo su più fronti. Scuola Holden, che per chi non lo sapesse, lo ricordiamo, è probabilmente la più famosa scuola in Italia che si occupa di diciamo creare master di scrittura e storytelling, sì. E da cui esci anche tu, tra l'altro. Sì, dalla quale esco anch'io, diciamo, questo giugno, lo scorso giugno, è un dal master biennale in storytelling, in scrittura e storytelling, è un percorso che ho fatto negli ultimi 2 anni, e quindi insomma nel biennio 2009-2011, quindi insomma un percorso che rivendico orgogliosamente. È una scuola che ci piace molto. E un percorso che ti ha poi portato anche a continuare a collaborare, sì, con la scuola anche attualmente. Sì, attualmente mi occupo della didattica lì a scuola, ho in attivo anche altre collaborazioni, tra le quali la vostra, che mi pregio sempre di menzionare soprattutto quando sono qui. E la nostra probabilmente, se il tuo lavoro fosse una villa, la nostra è lo sgabuzzino giardiniere. No, assolutamente, ci mancherebbe. La vostra è il tetto senza la quale pioverebbe dentro. E poi niente, poi si scrive, si cerca di pubblicare, si scrivono racconti, insomma. Infatti a breve, non vogliamo anticipare niente, ma ci sarà una pubblicazione in un volume collettivo per un editore importante, insomma un editore importante, quindi vedremo insomma questo nome in giro. E poi anche questa nuova sfida che ti vede unito al comune di Jesolo per la gestione di un corso di scrittura e narrazione. Vuoi parlarcene? Guarda, ti ringrazio. E il comune di Jesolo, oltre a dare la possibilità a molti scrittori d'estate di presentare le loro cose, e il premio Campiello, sì, di presentarsi con i propri autori, mi ha dato anche la possibilità di fare questo laboratorio di scrittura che partirà a marzo. La prima data è il 3, si è avanti tutti i sabati, quindi dal 3 marzo fino al 7 di aprile. Sono 5 sabati molto intensi e intensivi, in cui si parla di scrittura, di fondamenti della narrazione, e in cui tutti gli aspiranti scrittori, tutte le persone che hanno voglia di mettersi alla prova con la narrazione e di cercare di capire gli strumenti base appunto della scrittura, possono venire a mettersi, come dire, in gioco, possono, come dire, con me cercare di capire quali sono i meccanismi della narrazione. Anche perché, per tornare al libro di Baricco, in qualche modo, se a un certo punto vorranno smettere di scrivere, è il caso che prima cominci. Dovranno anche pure iniziare prima o poi, insomma. Quindi io accolgo a gran voce, e anzi ribadisco l'idea di partecipare a questo corso, che viene tenuto presso la Biblioteca Civica di Jesolo, che è in piazzetta Jesolo, al numero 1, e si terrà per 5 sabati, il 3, il 10, il 24 ed il 31 marzo, e poi a seguire il 7 aprile. Gli orari, come si diceva, al sabato dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 16. Sì, sono giornate piene, però è giusto che quando una persona ha una passione per qualcosa, secondo me riesce anche a seguire delle lezioni particolarmente intensive in una classe su qualcosa che ama. Hai già idea di come saranno strutturate le lezioni, che temi verranno trattati, così a grandi linee? Sì, di solito nei corsi di scrittura ci sono degli elementi di base che vengono sempre messi come argomento fisso, per esempio l'incipit, la descrizione del personaggio. Ci sono anche nel mio corso, ho cercato di dare un respiro un po' più ampio, ci sono delle lezioni un po' particolari, per esempio sulla voce, sul mondo poetico, che cosa significa avere un proprio mondo poetico, e poi ovviamente delle riflessioni su perché si scrive. E credo che sia, beh, ovviamente insomma non vorrei essere troppo autoreferenziale, però un corso che possa dare degli strumenti di base abbastanza importanti per chi vuole iniziare. Beh. Vedremo di trovarci lì. Chi vuole delle informazioni in più, come può fare? Può mandarmi una mail a Ferdinando Morgana, tutto attaccato, senza puntini, senza maiuscole, ferdinandomorgana@libero.it. L'altro canale con cui potete reperire informazioni relativamente a questo corso di scrittura e narrazione è il numero di telefono della biblioteca di IESO, lo 0421 359144. Lo ripeto, 0421 359144. Potete trovare tutte queste informazioni anche nel nostro blog, che è www.bloverbooking.wordpress.com, o nel sito della radio www.radiosandona.it. Se volete ulteriori informazioni, senza rinviarvi a ferdinandomorgana@libero.it, non lo so, siete timidi, non volete parlargli direttamente, scrivete a noi radio@radiosandona.it e per quello che è nelle nostre limitate competenze cercheremo di rispondervi. Come sempre vi ricordo che se vi partissero i 5 minuti e volete intervenire in trasmissione, telefonate allo 0421 560993 o mandate un fax allo 0421 560994. Intermezzo musicale e poi torniamo a parlare di libri, sempre in compagnia di Ferdinando e di Alessandro Barrico. Every time you get a drink, and every time you go to sleep, all those dreams inside your head, is there sunlight on your bed? Every time you're driving home, way outside the safety zone, wherever you will ever be, you're never getting rid of me. You own me. Nothing you can do, you own me. Could I make a safer bet for what you break is what you get? You wake up in the bed you make. You made a big mistake. You own me. There's nothing you can do. You own me. You own me. Yourself to me, the man who is me. National 102.2 Radio Sandonà, Lucky You, quindi fortunato te e più che altro fortunati noi che abbiamo qui Elisa e ci legge un secondo estratto e il secondo capitolo del libro di questa sera. La mattina in cui uscì l'articolo sul Guardian, con grande evidenza nell'inserto domenicale, Jasper Quinn era in Spagna, a Granada. Gli era parso opportuno, nelle circostanze, mettere tra sé e il mondo una certa distanza. Aveva scelto un alberghetto tanto modesto da non prevedere il telefono in camera. Così, quella mattina, dovettero salire ad avvertirlo che c'era una chiamata per lui, sotto, all'ingresso. Lui scese in pigiama e si avvicinò malvolentieri a un vecchio telefono laccato in giallo, posato su un tavolino di vimini. Appoggiò all'orecchio la cornetta e quella che sentì era la voce di Tom Bruce Shepherd, il suo agente. «Cos'è questa storia, Jasper?» «Quale storia?» «Le 52 cose. Le ho lette stamattina. Mi è passato il giornale Lotti. Ero ancora a letto. A momenti mi viene un colpo. Forse avrei dovuto avvertirti. Non mi direi che è una cosa seria. È una provocazione, una denuncia. Cosa diavolo è?» «Niente, è un articolo. Ma è tutto vero?» «In che senso?» «Voglio dire, l'ho scritto seriamente. È esattamente quello che ho deciso.» «Stai scherzando? Stai dicendomi che smetti di scrivere?» «Sì, ma sei pazzo!» «Adesso devo proprio andare, sai. Aspetta un attimo, Jasper. Dobbiamo parlarne. Se non ne parli con me, che sono il tuo agente, non c'è niente da aggiungere. Smetto di scrivere e basta.» «La sai una cosa, Jasper? Mi stai ascoltando? La sai una cosa?» «Sì, ti sto ascoltando.» «Allora ascoltami. Io quella frase l'ho già sentita decine di volte. Io me la sono sentita dire da un numero di scrittori che tu neanche ti immagini. L'ho sentita pronunciare anche da Martin Manis. Mi credi? Sarà stato una decina d'anni fa. Mi disse quelle esatte parole: smetto di scrivere. Ed è solo un esempio, ma tu potrei fartene una ventina. Vuoi che ti faccia la lista?» «Non credo sia necessario.» «E sai una cosa? Non uno che abbia smesso davvero. Non esiste di smettere.» «D'accordo, ma adesso devo proprio andare, Tom.» «Non uno.» «D'accordo.» «Bell'articolo comunque.» «Grazie.» «Un vero sasso nello stagno.» «Non dire quella frase, ti prego.» «Cosa?» «Niente. Adesso vado.» «Ti aspetto a Londra. Quando vieni?» «Lotti sarebbe strafelice di vederti.» «Sto per staccare, Tom.» «Jasper, fratellone, non fare scherzi.» «Ho staccato, Tom.» Quest'ultima frase, però, la disse dopo aver staccato, quindi Tom Bruce Shepherd non la sentì. E questo era il secondo capitolo di Mr. Gwyn di Alessandro Baricco. Cosa succede poi in questo Mr. Gwyn? Allora, eravamo arrivati a parlare di copisti, se non mi sbaglio. Allora, questa intuizione che coglie Mr. Gwyn è appunto quella di poter diventare un copista, quindi di occuparsi della scrittura, occuparsi della narrazione e delle persone che lui incontro, più che raccontando eventi o personaggi, facendo il copista di persone. Tu dirai, caro Alvise, facendo il pittore? No. Facendo il ritrattista? No. E allora cosa si inventa Mr. Gwyn? Ecco, cosa si inventa? Non lo diciamo in questa sede, altrimenti priviamo tutti quelli che ci ascoltano della bellezza di poter leggere il romanzo, però possiamo dire che Mr. Gwyn comincia un lungo percorso di avvicinamento a questa sua nuova forma di d'arte, ma più che d'arte direi di artigianato, perché questo romanzo alla fin fine parla molto anche di questa idea, del fatto che, almeno secondo me, io la vedo così, che la scrittura più che arte è artigianato. ed è una cosa sulla quale Baricco effettivamente riflette molto ultimamente. E non a caso Mr. Gwynne, mentre cerca di allestire il suo studio d'artista nel quale accogliere le persone di cui farà il ritratto, lo allestisce comprando dei mobili, comprando dei tappeti e soprattutto ricreando un certo tipo di illuminazione. E nel fare questo percorso di avvicinamento a quello che desidera fare, cioè il copista di persone, incontra tutta una serie di artigiani, di personaggi particolari. Tra cui un artigiano che fabbrica lampadine. E fabbrica lampadine a mano. Che meraviglia! E questa è un'invenzione effettivamente notevole. E in questo romanzo si racconta di questo artigiano che fabbrica queste lampadine a mano, e lo fa da una vita praticamente, e non solo riesce a farle della forma che il suo committente preferisce, ma riesce anche a fare in modo che si spengano in un preciso momento. Per cui Mr. Gwynne gliene commissiona un certo numero e gli chiede di fabbricarle in modo tale che resistano una certa quantità di tempo. Ne prende una scatola, se ne fa commissionare un certo numero, una per ogni persona che deve copiare, e queste lampadine si devono, all'interno di un certo range di tempo, scusami la parola veramente brutta ma è l'unica che mi viene in mente, devono smettere di funzionare una alla volta in un momento così casuale, ma tutte all'interno dello stesso periodo, diciamo. Così che praticamente in questo studio, mentre il ritrattista, il copista e la persona che viene ritratta sono lì fondamentalmente uno a essere studiato e l'altro a studiare la persona da copiare, la luce verrà a essere sempre più fioca, sempre più, come dire, sottile, però in momenti non prevedibili. Poi un altro dei personaggi principali, diciamo, di questo Mr. Gwynne è l'assistente di Mr. Gwynne. L'assistente di Mr. Gwynne è Rebecca. È questa ragazza che all'inizio è l'assistente di Tom, che abbiamo sentito prima nel capitolo 2, e poi diventa l'assistente di Mr. Gwynne. È una ragazza bellissima, e non si può prescindere dall'avere un'assistente bellissima quando cerchi di fare un mestiere così legato alla bellezza. Ed è una ragazza bellissima, molto grassa, grassissima, che Baricco dice si muove in una maniera molto peculiare, si muove in maniera navale, che io trovo essere una definizione stupenda. E quindi questa ragazza dall'incedere navale, estremamente bella, talmente bella che, diciamo, tra lei e Mr. Gwynne poi si attuerà anche una seduzione, insomma, di qualche tipo, e possiamo immaginare di quale tipo. Ecco, questa ragazza poi diventa l'assistente del nostro protagonista. Quindi, riprendendo le fila di quello che è questo Mr. Gwynne, l'ultimo romanzo di Alessandro Baricco, se dovessi citare tre ragioni per suggerirlo ai nostri ascoltatori, cosa diresti? Allora, guarda, intanto ti posso dire che è un libro che è foderato, come dice l'autore stesso, è foderato di un certo tipo di bellezza, perché racconta la fine di una carriera e l'inizio di un'altra carriera dello stesso protagonista, e riesce a far capire al lettore come la fine del modo del mondo di quella persona lì, perché per lui scrivere era tutto il suo mondo, e l'inizio di un altro spicchio di mondo della stessa persona, alla fin fine è tutto foderato della stessa stoffa. Insomma, quindi quando pensiamo che le cose che ci sono appartenute siano finite e iniziamo un'altra porzione nella nostra vita, in realtà è tutto foderato dello stesso materiale. Quindi riflettere su questa cosa penso sia importante. Poi una seconda cosa è ovviamente una galleria di personaggi estremamente belle. C'è Rebecca, della quale abbiamo detto poco, però è un personaggio molto interessante. C'è la vecchia signora col foulard impermeabile, c'è l'artigiano che fa le lampadine di cui abbiamo detto, ce ne sono anche altri veramente molto belli, e quindi questa è sicuramente la seconda motivazione. La terza, che può sembrare la più frivola, secondo me è anche molto peculiare, c'è la copertina. Tu dirai, è una cosa sciocca, però la copertina è e tutto l'impianto grafico dei nuovi libri Feltrinelli, soprattutto quelli legati a Baricco, Emmaus e anche questo. È una copertina, secondo me, veramente straordinaria, perché di solito l'editoria italiana viene accusata di osare poco con le copertine, questa è molto innovativa. Io ringrazio Ferdinando per essere stato con noi oggi e averci parlato di Mr. Gwyn di Alessandro Baricco, un consiglio per l'acquisto certissimo per il prossimo futuro. E ringrazio Elisa per anche oggi averci prestato un po' della sua voce, Lele in regia e Polo per diciamo tanta buona volontà che mette in questo programma e per i suoi occhioni da cerbiatto, e senza il quale non saremmo qui. Esatto, da Polo, padre un po' di tutti. Noi ci rivediamo la prossima settimana e vi salutiamo con Goodbye di Apparat, messo suonato per voi dalle agili manine di Mr. Terzariol.